Virgin Radio, TGCOM 24, Breaking News. Buona giornata da Federica De Boni. Ancora un incidente mortale sul lavoro nella notte a Brindisi. A perdere la vita un operaio di 46 anni che stava eseguendo lavori di manutenzione su un nastro trasportatore di uno stabilimento di zucchero. In corso gli accertamenti necessari a stabilire la dinamica ed eventuali responsabilità. Nuovi raid di Israele su Gaza, mentre al Cairo proseguono i colloqui per un cessate il fuoco. Hamas invia una sua delegazione. Il segretario di Stato americano Blinken, ad oggi l'unico ostacolo all'intesa è la posizione dei militanti. L'attacco a Rafah, aggiunge, causerebbe danni inaccettabili. La posizione dell'Italia non cambia. Abbiamo sempre detto che Kiev andava aiutata in ogni modo possibile, escludendo però un intervento diretto nel conflitto dei nostri militari con la Russia. Così il ministro della difesa Crosetto, dopo le nuove dichiarazioni del presidente francese Macron sull'invio di truppe in Ucraina. Mosca avverte, così si rischia una escalation diretta. Vertice Meloni Nordio sulla riforma della giustizia. C'è l'accordo sulla separazione delle carriere, ipotesi di un'alta corte per giudicare i magistrati. Il governo vuole il disegno di legge prima del voto delle europee a giugno. Dalle 21 di questa sera per 24 ore i treni possono subire cancellazioni o variazioni per uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS, Trenitalia e Trenord. Trattandosi di una giornata festiva, non sono previste fasce di garanzia. Formula 1, Verstappen su Red Bull in pole position nella sprint race a Miami davanti alla Ferrari di Leclerc. Calcio, nell'anticipo della 35esima di Serie A, il Torino frena la corsa Champions del Bologna con 1-0-0. Oggi altre due gare, alle 18 Monza-Lazio, questa sera Sassuolo-Inter. Queste le breaking news di TGCOM 24. Classic rock. I shot the sheriff, but I did not shoot the deputy. I shot the sheriff, but I didn't shoot the deputy. All around in my hometown, they're trying to track me. They say they want to bring me in guilty for the killing of a deputy, for the life of a deputy. But I say, I shot the sheriff, but I swear it was in self-defense. I swear it was in self-defense. I shot the sheriff, but I swear it was in self-defense. Freedom came my way one day, and I started out in town there. All of a sudden I see sheriff. So I shot him down. I said, I shot the sheriff, but I did not shoot the deputy. Deputy. titties and the dunder cheek. You got problems in your life, I love. You got a broken heart. He's double dealing with your best friend. That's when the teardrops start, fella. Pick up the phone, I'm here alone. I'll make a social call. Come right in, we'll get down him. We'll have ourselves a ball. Hey, Virgin Radio. Rock. The sound of your own wheels drive you crazy. Lighten up while you still can. Don't even try to understand. Just find a place to make your stand. Take it easy. It's rock. Virgin Radio. Slashed and torn. Living in the world agree there will be an answer

choo-choo, honk honk honk, a danta, a shakuna nature, bapa lula ni chow, bapa ni chow. Give up your vows, give up your vows, save our city, save our city, and now. And I woke up in morning, I got myself a beer. Far away from me.

You got nothing to lose. You're invisible now. You got no secrets to conceal. Space cowboy, yeah. Some call me the gangster of love. Some people call me Maurice, 'cause I speak of the pompous of love. People talk about me, baby. Say I'm doing you wrong. Doing you wrong. Well, don't you worry, baby, don't worry, 'cause I'm right here, right here, right here, right here at home. 'Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I get my loving on the run. Ooh. Virgin Radio TGCOM 24, Breaking News. Buona giornata da Federica De Boni. L'unico ostacolo al cessate il fuoco a Gaza è Hamas, così il segretario di Stato americano Blinken. Un attacco a Rafah, aggiunge, causerebbe danni inaccettabili. I militanti inviano una delegazione al Cairo per i colloqui. Il Qatar è disponibile ad accettare la richiesta USA di espellere i leader di Hamas. Israele sferra un altro raid nella striscia. Il conflitto ucraino, tensione tra Mosca e i paesi occidentali, dopo le parole del presidente francese Macron sulla possibilità di inviare truppe in Ucraina e quelle del ministro britannico Cameron. Il Cremlino avverte il rischio di una escalation diretta. A Palazzo Chigi vertice ieri tra la premier Meloni e il guardasigilli Nordio. Sul tavolo la riforma della giustizia. C'è l'ipotesi di un'alta corte per giudicare i magistrati. Accordo sulla separazione delle carriere. Nodo sull'elezione dei togati. Il rating dell'Italia confermato da Fitch a tripla B con outlook stabile. L'economia italiana crescerà dello 0,7% nel 2025 e dell'1,3% nel 2026. Secondo l'agenzia, il deficit stimato al 4,7% quest'anno dal 7,4% del 2023 dovuto al superbonus. Cinema ai David di Donatello, trionfa Io Capitano di Matteo Garrone con 7 statuette vinte, tra cui miglior film e regia. 6 per C'è ancora domani di Paola Cortellesi, tra cui quella per la miglior attrice protagonista. 5 statuette per Rapito di Marco Bellocchio. Michele Riondino, miglior attore per Palazzina Laff. Calcio nella 35esima di Serie A. Il Torino pareggia 0-0 con il Bologna e frena la corsa Champions degli emiliani. Oggi due gare, Monza-Lazio e Sassuolo-Inter. Queste le breaking news di TGCOM 24. Rock. Climbing up on South Street Hill. stood still. Eagle flew out of the night. He was something to observe. Came in close, I heard a voice. Standing, stretching every nerve. I had to listen, had no choice. Imagination, my heart going. Rock. Potential heights. Classic Rock. Virgin Radio. Rock. There's no time for us. There's no place for us. What is this thing that builds our dreams? Slips away from us. Who wants to live forever? Who wants to live forever? There's no chance for us. No.

Virgin Radio. Virgin Radio TGCOM 24. Breaking news. Buona giornata da Federica De Boni. Un operaio di 46 anni di Latiano è morto la scorsa notte in seguito ad un incidente sul lavoro all'interno di uno zuccherificio a Brindisi. Stava facendo manutenzione su un nastro trasportatore. Era dipendente di una ditta esterna. Anche il padre era deceduto lavorando. I rappresentanti di Hamas sono arrivati in Egitto per i colloqui sul cessate il fuoco a Gaza. Ci sarebbero progressi nei negoziati, lo riportano media locali. Tel Aviv avverte: accordo o entreremo a Rafah. Monito del segretario di Stato americano Blinken, l'attacco causerebbe danni inaccettabili. Escluso un intervento diretto dei militari italiani in Ucraina, lo chiarisce oggi il ministro della Difesa Crosetto. Sulle parole del presidente francese Macron, dice: non giudico un presidente di un paese amico come la Francia, ma non comprendo la finalità e l'utilità di queste dichiarazioni che oggettivamente innalzano la tensione. Dossier della Polizia Postale diffuso in occasione della giornata nazionale contro pedofilia e pedopornografia. 1131 le denunce in Italia nel 2023. Aumentano le estorsioni sessuali. Degli oltre 28.000 siti analizzati, più di 2.700 sono stati oscurati. La famiglia cristiana sta attraversando in questo cambiamento d'epoca una vera e propria tempesta culturale. Si trova minacciata e tentata su vari fronti. Così Papa Francesco in Vaticano. Bergoglio ammonisce: serve custodire il matrimonio. Ciclismo al via oggi il Giro d'Italia, edizione 107 con l'omaggio al Grande Torino. Prima tappa da Venaria Reale con arrivo a Torino dopo 140 km e la salita sul Colle della Maddalena. Queste le breaking news di TGCOM 24. Rock. and who is who. Out of the way, it's a busy Rock. Classic Rock.